24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Oggi in primo piano l'Italia della crisi, il premier Silvio Berlusconi davanti alle Camere ha rassicurato il Paese, ha parlato di crescita, coesione nazionale, di una stabilità politica in grado di fronteggiare la speculazione. E a difendere l'Italia anche il Presidente della Commissione Europea, Barroso, che ha definito palesemente ingiustificate le pressioni dei mercati su Spagna e Italia. Parleremo anche della guerra della NATO in Libia, un missile di Gheddafi è caduto vicino ad una nave italiana, per il ministro della difesa la russa però non c'è nessun motivo di preoccupazione. E partiamo come annunciato dall'informativa sulla crisi del premier Silvio Berlusconi. L'Italia ha fondamentali economici solidi con banche liquide e solvibili che hanno superato gli stress test europei, ha detto il presidente del Consiglio italiano davanti alle Camere. La solidità politica, ha aggiunto Berlusconi, è la migliore arma contro la speculazione. Insorge l'opposizione che chiede le dimissioni del cavaliere. Poco meno di mezz'ora per un'informativa sulla situazione economica del Paese che di fatto è stata un appello alle forze politiche, anche di opposizione, a sindacati ed imprenditori affinché si remi tutti dalla stessa parte per uscire dalla stretta della speculazione internazionale. Nessuno nega la crisi, ma il Paese ha i fondamentali solidi anche se i mercati non li tengono in considerazione, ha detto Berlusconi. Di qui la necessità, ha aggiunto il Premier, di un patto per la crescita. Il Paese è economicamente e finanziariamente solido. Nei momenti difficili sa essere coeso e sa affrontare le difficoltà. Il governo e il Parlamento agiranno, mi auguro, con un ampio consenso politico e sociale per affrontare ogni minaccia alla nostra stabilità finanziaria. Oggi più che mai dobbiamo agire tutti insieme. La crisi, ha aggiunto Berlusconi, va fronteggiata con coerenza e fermezza senza seguire i nervosismi dei mercati. Il Premier si è detto coinvolto in prima persona da Presidente del Consiglio e da imprenditore. State ascoltando un imprenditore che ha 3 aziende in borsa e che quindi è nella trincea finanziaria, consapevole ogni giorno di quel che accade sui mercati. Berlusconi ha ricordato quanto già fatto per la crescita, per la stabilità dei conti, il giudizio positivo su questi dell'Europa, la necessità che il governo arrivi fine in fondo. Quanto alle ulteriori misure per il rilancio, il Premier ha proposto alle parti sociali una gestione comune delle misure previste dalla manovra, un piano sulle infrastrutture, una maggiore efficienza per il credito alle imprese, tempi brevi per la delega fiscale, relazioni industriali più efficienti nel pubblico e nel privato a partire dalla riforma dello statuto dei lavoratori. Infine, il capitolo dei costi della politica vanno livellati alla media europea, ha detto Berlusconi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sentiamo riguardo il commento del terrorista politico del Sole 24 Ore, Stefano Folli. Ma io non ho capito esattamente quali fossero gli interlocutori di questo discorso, perché se è stato rinviato a borse chiuse, voleva dire che il principale interlocutore erano i mercati. Però effettivamente non mi sembra che sia stato un discorso rivolto ai mercati. Addirittura Berlusconi ha sostanzialmente detto che i mercati si stanno sbagliando, perché l'Italia è un paese molto sano e che quindi la speculazione di fatto è un errore. Beh, se è questo, allora chi è il suo interlocutore? Diciamo un'opinione pubblica che aveva bisogno di essere rassicurata? Sì, forse, ma anche qui non è questo, mi sembra di cui ci fosse necessità in questo momento. C'è la necessità di un Presidente del Consiglio capace di mandare un messaggio forte al Paese nel suo complesso, ai mercati internazionali, alle forze produttive, ai sindacati e anche all'opposizione. Ecco, qui da questo punto di vista mi sembra un discorso molto debole, però l'impianto del discorso è un impianto che non tiene conto dei dati della realtà, e la realtà è piuttosto drammatica, cioè quella discontinuità forte che il documento di Confindustria, delle forze sindacali eccetera avevano posto l'altro giorno, ecco, questa discontinuità sicuramente non c'è, c'è anzi la rivendicazione di una coerenza del buon lavoro fatto e di una prospettiva che punta tutto sulla stabilità fino al 2013. E ieri nel pomeriggio è intervenuto in difesa del nostro Paese anche il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, che ha definito palesemente ingiustificate le pressioni dei mercati su Spagna e Italia. Di crisi e dei problemi dell'area euro ha parlato anche il Ministro italiano dell'Economia economia Giulio Tremonti, che ha incontrato il premier lussemburghese e presidente dell'Eurogruppo Jean-Claude Juncker. Continueremo la nostra discussione sulla crisi insieme, ha detto quest'ultimo. Tutte negative intanto le borse europee. Londra e Francoforte hanno perso il 2,3%, Parigi retrocessa dell'1,93%. Ancora una giornata di vendite per le borse europee, dove è tornato a dominare il timore per l'andamento dell'economia mondiale. Gli investitori hanno iniziato a fare i conti con lo spauracchio di una nuova recessione dopo la tornata di dati americani deludenti. Il FTSE MIB ha perso l'1,54%. Piazza Affari però ha fatto meglio delle altre borse europee, beneficiando dell'andamento di alcune blue chips. A Milano hanno registrato un andamento contrastato le azioni bancarie. Se le Intesa San Paolo hanno perso oltre il 2% e le BPM oltre l'1%, le MPS sono salite dell'1,97% e le Unicredit dell'1,7%. Quest'ultime hanno festeggiato i conti migliori delle attese. L'istituto ha infatti archiviato il primo semestre con un utile netto in aumento del 97,5% rispetto a un anno fa. Hanno continuato a perdere punti le Fiat SPA, meno 1,7%, pur chiudendo al di sopra dei minimi di giornata. Sedia Sorin ha registrato una flessione superiore al 5%, Eni è scivolata del 3,6% e Saipem del 5,19%. L'ST, perdendo oltre il 5%, sono piombate ai minimi dal luglio 2009. Telecom Italia, infine, ha recuperato lo 0,2%, beneficiando dei conti in crescita delle controllate brasiliana e argentina. In più, ad accendere i riflettori sull'azienda di telefonia è stato anche l'articolo del Corriere della Sera che ipotizza che il gruppo possa rilevare Tre Italia. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Voltiamo pagina. Un barcone con 250 persone è arrivato a Lampedusa e gli immigrati si aggiungono ai 921 già presenti nei centri di accoglienza dell'isola. In navigazione verso Lampedusa ci sono altre due barche in arrivo dalla Libia. E a pochi chilometri da Lampedusa continua la guerra della NATO contro il regime di Gheddafi. Ieri mattina la Libia ha lanciato un missile in direzione di una nave italiana. Non ci sono motivi di particolare preoccupazione, ma ve l'abbiamo segnalato, che magari vi arriva poi la notizia, chissà che cosa si pensa che sia successo. Quello che è successo è che un missile intorno alle 10:40 ora italiana è stato lanciato dalla Libia contro la nave della Marina Militare Bersagliere che incrocia al largo delle coste libiche. Per la precisione si trovava a 12 chilometri dalla costa di Misurata. Il tracciato, ha chiarito il ministro della difesa alla russa, mostra la caduta del vettore al largo della città libica a 2 chilometri dalla nostra nave. È fuorviante dunque fare paragoni con i missili lanciati contro Lampedusa da Gheddafi nell'86, ha detto la russa, che esclude fosse l'Italia l'obiettivo dell'attacco. Si è trattato di un fatto episodico, ha assicurato il generale Leonardo Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, non indicativo di una riacquisita capacità militare di Gheddafi. Quello che ancora non è chiaro è se fosse un missile o un razzo, quello che è stato visto dall'equipaggio della nostra fregata che si è limitata a portarsi più a largo per prudenza. Il vettore sarebbe stato lanciato dall'area di Slitan, città a 40 km a ovest di Misurata, controllata dalle forze del Raïs. Adesso lo sport con il calcio e con la rinascita dei francesi del Paris Saint-Germain, sostenuta da un'alleanza davvero particolare. Sentiamo. Petrodollari del Qatar per riaccendere il calcio nella Ville Lumière. È il cocktail che, per rilanciare i sogni di gloria del Paris Saint-Germain, è stato messo a punto da un tifoso d'eccezione dei parigini, niente meno che il presidente francese Nicolas Sarkozy in persona. Un sodalizio, quello tra il presidente e lo sceicco qatariota Tamim bin Hamad Al Thani, che si è consolidato nel corso degli anni e che sta dando in questi mesi i propri frutti calcistici. Da un lato il Qatar, che grazie anche al sostegno transalpino ha ottenuto a sorpresa l'assegnazione dei mondiali di calcio del 2022. Dall'altro il fondo Qatar Sport Investment dello sceicco Al Thani, che ha acquistato la maggioranza del Paris Saint-Germain con un investimento di 132 milioni di euro. Effetto immediato una campagna acquisti imperiale con l'arrivo dell'ex interista Leonardo, dell'argentino Pastore dal Palermo insieme al portiere Sirigu, di Sissoko dalla Juventus e Menes dalla Roma. Una grandeur calcistica in salsa catariota che promette scintille e successi. Almeno fino a quando, c'è da scommetterci, qualcuno non vorrà imporre magari un presunto talento panarabo al club parigino. Allora la luna di miele potrebbe trasformarsi presto in luna di fiele. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E in chiusura la musica. Sarà per me, sarà così. Alla prima figlia, Aurora Sofì, ora quindicenne, nata dall'unione con Michel Hutzinger, aveva dedicato l'Aurora. Ora Eros Ramazzotti, uno degli artisti italiani più famosi in Europa e nel mondo, è diventato papà per la seconda volta. La bambina si chiama Raffaella Maria ed è nata dall'unione con la modella Marika Pellegrinelli, di appena 9 anni maggiore di Aurora. Ed è tutto per questo appuntamento con 24 ore in Europa. Grazie a Mauro De Angeli in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa. In collaborazione con Euronet.